Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, dopo una settimana di calcio duro in attesa di tuffarci in un weekend che lo sarà altrettanto se non di più, ci rifugiamo sull'isola, non dei famosi ma dei canestri. Ciao Flavio Suardi. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Con grande piacere ci rifugiamo sull'isola dei canestri. Dan Peterson, buongiorno coach. Ciao Carlo, ciao Flavio, ma Flavio dove era la settimana scorsa? Latitante, io a Cuba tutti. Coach, come Cuba, dite sempre ecco. Voi a Cuba ero settimana scorsa. Bentornato Flavio. Tra un po' andiamo noi a coach, tra un po' andiamo noi, lo lasciamo qua da solo. Oggi è tornato con noi quello che ho definito l'altra volta e continuo a definire l'allenatore più creativo della nostra pallacanestro, Zare Marcoschi. Ciao Zare, grazie. Ciao, buongiorno a voi, buongiorno coach. D'altra parte è stata la settimana delle imprese creative, l'ha aperta Roma vincendo con Siena, poi il Partizan in Europa che vince gara 1 a Tel Aviv, poi Gallinari che accetta il trash talk di Carmelo Anthony, viene segna 28 in faccia e lo batte, poi ieri sera il Real Madrid che batte il Barcellona con Ettore Messina che fa questa impresa pazzesca, e poi ci sono tutte quelle dell'NCAA di cui ormai ho perso il conto. Coach, partiamo dall'Europa, cosa dici? Well, ovviamente hai citato tu i due colpi micidiali, Partizan che sbanca Tel Aviv martedì, ovviamente Tel Aviv si è svegliata ieri, gli è rifilato 98, ma 1-1, basta che tenere servizio in casa per Partizan e passano al Final Four. Io penso che Maccabi però in due partite lì a Belgrado riesce a strappare uno, è sempre il favorito per me Maccabi, anche se adesso la numerica va a favore di Partizan. Poi hai citato la super impresa di Ettore Messina. Noi per Sport Italia ieri abbiamo citato i numeri, in Eurolega o Coppa di Campione 0-8 per Real Madrid nella storia a Barcellona, Barcellona che non perde in casa da un anno, quest'anno 0-4 Real contro Barcellona, con tre veramente pesanti e poi quella veramente durissima martedì sera 60-57 per Real, poi 11-0 per Barcellona, finisce la partita. Cioè, quindi per Ettore a rimontare questo e vincere la partita ieri, che era meritato di vincere, non dominato, però avevano controllo della partita, sì, quasi sempre. Dominato nella mente, yeah. Zare. Quella, sì. La differenza fra le due squadre, parlo per me, è stata l'intensità. Real, veramente come si dice in Italia, ha messo le mani addosso a Barcellona, annullato Rubio che non ho mai visto fatto mai, Rubio ci ha fatto un canestro verso la fine, Juan Carlos Navarro anche lui un canestro, sono stati tipo fra di loro 2 su 16, una roba così. Sì, li abbiamo contati proprio appena prima della messa in onda tra Navarro, Rubio e Lakovic, cioè abbiamo un 2 su 15 dal campo più Sada che se ce lo mettiamo per girare in ruolo 11 minuti con 0 tiri, quindi sì, questo è sintomatico di una difesa che come dicevi tu, sì, mani addosso. È il mago della difesa, ma voglio anche citare un'altra cosa, e Zare che è un coach forse lo sa benissimo, che secondo me anche la gestione dalla panchina di Ettore, che lui non è uno schematico, la gente dice Ettore è schematico, no, non è vero, lui ha grande lettura della partita, grande feeling della partita. Prendiamo Lou Bullock quest'anno non ha quasi mai toccato campo, ieri 24 minuti, perché Ettore dice con lui in campo e ha fatto solo 5 punti in una partita di punteggio basso, però ha indovinato Bullock, Veličević ha indovinato lui, c'è proprio Ettore ha feeling della partita, se uno va bene lo lascia in campo, gli altri no, hai fatto i tuoi 2 minuti e 30 secondi, devi uscire, non Messina, e secondo me è stato determinante. Zare, che ne pensi? L'hai detto prima mentre andava la sigla. È una conferma, coach, una conferma che abbiamo detto la stessa cosa prima della trasmissione. Zare, siamo le stesse onde magnetiche noi. Okay. Grazie. Zare, Ettore ha tolto l'ossigeno dal cervello del Barcellona, no? Ha soffocato le guardie e poi onestamente Ante Tomic sembrava Pau Gasol ieri sera. Appunto, ha soffocato le guardie che gli creavano problema nel ritmo, perché Barcellona nelle precedenti partite di quest'anno ha segnato parecchi punti, è andata quasi sempre sopra 80 punti, perciò bisognava soffocare i playmaker che sono stati veramente annullati. Dopodiché Navarro, c'erano sui blocchi che non potevano uscire, hanno fatto pure i cambi per neutralizzare sue uscite e tiro da 3 punti uscite dai blocchi, perciò è stata letta alla perfezione la partita. D'altronde la sua esperienza contro quella di Xavi Pascual secondo me, risultata decisiva per la vittoria. Coach, tu come la vedi questa serie in sede di pronostico? So che non ti devo chiedere pronostici, lo so benissimo, ma io voglio farti dei dispetti. Come la vedi questa serie? Madrid ha 2 in casa e quindi è pericoloso, però se Barcellona riesce a strappare uno delle due a Madrid, vince Barcellona in casa, non si permette un altro passo falso. Però gara 5, partita secca contro Ettore Messina, io non lo vorrei mai. Hai 1000% ragione, che in una partita secca, soprattutto se la quinta, la bella, ce l'hai a casa, e se l'altra squadra sta addosso un quarto, due quarti, tre quarti, la pressione proprio di dover vincere in casa, i tifosi trasmettono angoscia alla squadra di casa, perché oh dai ragazzi, forza dai, e proprio sentono il cambio di tono della voce e diventa una cosa negativa giocare in casa se non vai avanti 10-12 punti. Però coach, io ti chiedo questo, vista l'intensità che il Real Madrid ha messo in campo, secondo me non possono fare altro che augurarsi una serie il più corta possibile per cercare di mantenere questo tipo di piano partita, perché è difficile che una squadra, seppur attrezzata come il Real Madrid, riesca per 4 partite di fila, perché diamo per acquisita la seconda, usare quel tipo di atteggiamento. Ma invece sì, perché Ettore ha ruotato, anche forse guardando questo un pochettino, tutti i suoi uomini, 10-12, quello che erano a disposizione ieri sera, quindi nessuno ha fatto 35 minuti, c'è Bullock che ha fatto 24, gli altri ha fatto 20, l'altro ha fatto 22, l'altro 19, Tomic ha giocato solo 25 minuti, invento io, quindi sono riposati, hanno una partita questa fine settimana e poi le due partite a Madrid. Però io penso che tutti e due gli allenatori, ruotando tanti giocatori durante la partita precedente il risparmio di energia e durante la partita del martedì prossimo e giovedì prossimo, durante la partita stessa avrà sempre gente fresca, gambe fresche, polmoni freschi in campo e possono anche farcela. Hai ragione a dire che, sai, tante partite di 100% in una settimana non è facile, però non è facile neanche per Barcellona. Grazie coach, ciao ragazzi, buon lavoro, ciao Zare, ciao coach. Grazie coach Dan Peterson, noi ci fermiamo per il traffico, poi abbiamo un sacco di ospiti, un sacco di cose da dirvi, ma vogliamo parlare anche con gli ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666, già ce ne sono molti. E naturalmente parleremo di Roma e della vittoria su Siena, l'impresa che, come dicevo prima, ha aperto questa settimana delle imprese. Palla spicchi. Torniamo sempre con noi naturalmente Zare Marcoschi. Zare, invece, volevo una tua parola sulla prima impresa che citavo, cioè quella di Roma contro Siena. Che impressione ti ha fatto quella partita? Che cosa vuol dire secondo te, così, come prima impressione, quella partita per il nostro basket? Tanto o poco? Ma il modo in quale Roma ha vinto la partita è stato notevole e quello mi ha fatto impresa, mi ha impressionato. L'anno scorso di questo periodo era Fortitudo che poi retrocessa a vincere, sì, contro Siena, perciò organico di Roma non è secondo alle altre in Italia, magari qualcosina di più, perciò Roma ha tutto diritto di sperare di andare lontano nel playoff pure, ma è ancora prematuro per vederla come rivale diretto per il titolo a Siena. Come competitor diretto. È arrivato da noi Flavio Tranquillo, un po' in anticipo rispetto ai soliti tempi. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Tu che impressione hai avuto della vittoria di Siena? Secondo me c'è molto Boniciolli nella vittoria di Roma su Siena. Boniciolli che è l'unico che riesce ad entrare sotto la pelle di Siena con le parole e con la creatività anche tattica. Flavio. Sicuramente ci prova e questo è un merito, quanto ci entri sotto la pelle penso che lo può dire solamente quello che succederà più avanti, sempre che conti poi entrare sotto la pelle, però l'entrare sotto la pelle secondo me è relativo, quello che è meno relativo è invece mostrare con i fatti, ma anche con le parole, anche con le strategie di comunicazione, che c'è una voglia di provare a vincere la partita, il che è una parte molto importante della serie di vittorie di Siena, certo non quella preponderante, perché poi il resto è pallacanestro e lì poi devi giocare. Invece vorrei una tua considerazione, che sulla scorta di questi messaggi, Maurizio da Pinerolo, non vorrei essere nel pane del Maccabi, dover vincere per forza in una partita nella bolgia del Pionier. Non si giocherà al Pionier, ma nell'altro, quello grande, Pionier ci va a 50 cents, come abbiamo detto la settimana scorsa. Vai lì a cantare, ragazzo, che a noi serve il palazzetto grande per 30.000 spettatori. Altro messaggio, grande strategia di Messina, costringere il Barcellona a sudarsi ogni singolo tiro, non concedere mai contropiede. Ma l'allenatore del Barça non lo capisco, scrive un ascoltatore. Settimana delle grandi imprese, anche in Europa, Flavio. Grande impresa del Real Madrid, direi grande impresa soprattutto alla luce di gara 1. Persa gara 1 in quella maniera, avendo avuto tangibilmente la possibilità di vincerla, io onestamente per un fatto di energie e per come si era sviluppata gara 1, con tutti i buoni tiri che aveva dato il Barcellona, ho pensato la seconda la vince il Barcellona, perché a un certo punto prende in mano il ritmo della partita, fa un parziale di 10 o di 15 a 0 e finisce lì. E invece riuscire mentalmente a giocare due partite tenendo sotto ritmo per 80 o 78 minuti quel Barcellona a Barcellona, credo che sia un grandissimo, grandissimo lavoro da parte di Ettore Messina e della sua squadra. Sì, e tanto per ripetere, Zare, mi sembra che la serie, che il grande protagonista della serie sia comunque Ettore, no? Che ha già messo in scacco nelle due partite Savi Pasquale, che l'ha già messo in difficoltà nelle due partite, quindi quantomeno la sfida delle panchine per il Barcellona è a questo punto in salita netta. Assolutamente, soprattutto queste due partite, confrontandole con quelle precedenti, precedentemente fatti quest'anno tra le due squadre, ha fatto vedere che anche nelle sconfitte Ettore stava preparando una lunga serie dei scontri diretti con Barcellona, sia nel campionato, nel playoff magari, e in Eurolega che è uscita l'accoppiamento. Perciò penso che Ettore ieri ha dominato, anche a Barcellona sono consapevoli di questo, e non sarà facile andare e provare a vincere la terza, che è secondo me la decisiva. Sì. Flavio, sei d'accordo invece, passando ad un'altra grande impresa settimanale, se dico che la traccia lasciata da Danilo Gallinari nella partita contro Denver è stata la più importante traccia del basket italiano da quando è cominciata la nostra storia d'amore con l'NBA? Assolutamente sì, non vorrei fare il politico, mi devi far dire mezza cosa tornando un attimo indietro su Pasquale Messina, naturalmente, Real Madrid, naturalmente. Nel senso che con l'amore sconfinato, l'ammirazione sconfinata per Ettore Messina, credo che lui sarebbe il primo a dirvi e a dirci che poi il resto lo deve anche fare il Barcellona tirando col 20% da tre, perché se invece vanno dentro 5 tiri in più tra le due partite finisce una di 10 e l'altra di 15 magari. Ciò detto, sta dominando la serie da un punto di vista mentale e dentro quel 20% del Barcellona c'è tanto della pressione. Capitolo Gallinari, assolutamente è la cosa più importante che è successa a un italiano nell'NBA e nella storia, diciamo così, del rapporto tra basket italiano e basket NBA, nel momento in cui un giocatore italiano di quell'età, dell'88, dice il giorno prima voglio marcare io Carmelo Anthony. Questa cosa va sui giornali, Carmelo Anthony fa 16 nel primo tempo, lui gioca un primo tempo a dir poco incolore, parte con 0 su 5, fa un canestro, la partita onestamente sembra quella che serve per dimostrare che una cosa è parlare e un'altra è agire, e nel terzo quarto invece se la gioca a muso duro con il trash talking, segnando 17 punti che servono per far vincere la squadra, beh, questa è una cosa che non è mai successa. È chiaro che la situazione di New York è talmente particolare che c'è lo spazio che ti permette di fare una cosa un italiano dell'88, però poi non è così facile farla, e fino a ieri secondo me Danilo è stato, proprio per cultura cestistica, per formazione culturale cestistica, è stato molto molto schivo, molto poco propenso a farla. Adesso ha capito che la cosa giusta da fare può essere veramente una notte che cambia il rapporto tra lui, l'NBA, l'Italia e l'NBA. Flavio, volevo chiederti anche questo, apriamo un attimo il capitolo Belinelli, che è sicuramente meno dolce rispetto a quello che abbiamo aperto su Danilo Gallinari. Forse si pensava che potesse essere una questione anche di contesto di squadra, quando Belinelli a Golden State non faceva, praticamente non giocava mai, però anche sulla scorta di alcuni messaggi che ci mandano i nostri ascoltatori, io vorrei chiederti una valutazione di questo anno di Belinelli a Toronto, contesto diverso, prima parte di stagione forse più incoraggiante, adesso però siamo un po' tornati all'antico, non so se sei d'accordo. Beh, siamo tornati all'antico sicuramente, complice anche gli infortuni, certo, su sì, livelli produttivi, su livelli di minuti, su livelli di spazi, e anche onestamente, per quello che capisco, senza avere nessun feedback diretto, ma semplicemente interpretando le percezioni, a livello di soddisfazione rispetto a questo ruolo. Ovviamente il discorso è complicato, ovviamente il discorso è composito. Direi che anche se Toronto e Golden State sono due situazioni agli antipodi, e non solo da un punto di vista atmosferico o di latitudine, ci sono dei punti di contatto. Marco credo che sia un bivio, deve decidere che cosa vuole fare della sua vita cestistica, se vuole dimostrare a se stesso e agli altri che può farcela. Però secondo me all'interno di questo discorso, naturalmente se vuole rinunciare tra virgolette, abbiamo già risolto il problema. Se invece non vuole rinunciare, io continuo a dire, continuo a pensare che deve entrare nell'ordine di idee, per come gioca lui e per quello che è l'NBA, di diventare non un giocatore che gioca 40 minuti, è giusto che lo pensi, tutti i giocatori pensano di poter giocare 40 minuti, ma mi auguro di sbagliarmi per lui, secondo me 40 minuti nell'NBA non li giocherà mai. Può giocarne 20 o 22 che pesano moltissimo, che sono importantissimi e che servono magari più di altri 40 in una squadra importante. Però è un discorso molto facile da fare a livello di filosofia, meno poi da mettere in pratica. Grazie Flavio, ci sentiamo domenica. A presto. Grazie, ciao, Flavio. Ciao, ciao. Grazie a Flavio, tranquillo. No, prima nel sentire il racconto da Flavio della partita di Gallinari, pensavo a te, ce l'avessi avuto. È andata così, mi dispiace che è andata così. Senti, poi nell'anno quando, quando è stato eletto miglior giocatore del campionato MVP, sì, non avendolo in cinque delle, in tutte le partite che abbiamo perso, era pesante. È una sorpresa così grande trovarla a questi livelli, a fare a cazzotti cestistici, no, con no, un no, giocatore no. Come Melo Anthony. No, assolutamente no. Anche come personalità. Sì. Danilo è un ragazzo maturissimo, dopo primo impatto con l'NBA ha visto che bisogna prendere per il petto l'occasione che ce l'ha, e non mi sorprende assolutamente. La sua decisività di fare bene non mi sorprende assolutamente. Beninelli invece, si parlava di Beninelli, sta vivendo un momento difficile, non so onestamente quale futuro possa avere questo giocatore nell'NBA, se non ruoli marginali. Secondo me Beninelli deve imparare molto dall'episodio NBA di Esposito. Sono giocatori molto simili e penso che, come ha detto lei, se o avrà ruolo marginale oppure deve tornare in Europa. Sì, infatti, anche perché guardando le statistiche si parla comunque di 18 minuti di media in campo. Insomma, questo per l'esplosione, no? Non è così. Esatto, io avevo fatto questa domanda a Flavio e la giro poi anche a Cozzara, che è qui, proprio perché questa era la seconda stagione. Se prima si poteva parlare di contesto, adesso sembrava quasi inserito in un gruppo ottimale, tanta identità italiana, se vuoi, tanta Europa in quella squadra. Però insomma, mi pare che abbia trovato un po' quella che è la sua dimensione. Assolutamente. Non è vero che giocando guardia, pur con i mezzi fisici di Beninelli, la concorrenza è troppo forte, sì, no, sì, da sì, quelle sì. parti. Primo ascoltatore di oggi, Giuseppe da Sassari. Non c'è Giuseppe da Sassari, lo recupereremo tra poco. 8, Sassari 0. Che tu, coach, ricordi con grande... Mi dispiace che non c'è Giuseppe, ma adesso torna. Io sono molto, molto affettuoso con Sassari. Sassarese è stato mio primo episodio in Italia nel lontano 91-94, perciò 3 anni meravigliosi. Magari adesso ce la fanno a tornare a venire al piano di sopra. Mi auguro cosa veramente dici? Perché è una realtà veramente da incorniciare. Senti, cosa, io voglio farti una domanda, ma tu cosa faresti per battere Siena? Tu con Siena hai giocato, ce lo ricordiamo, una serie di finale scudetto, partendo da underdog, no? Perché non era l'obiettivo di quella Virtus. Sì. Ma mi ricordo addirittura che nella prima partita a Siena siamo arrivati a meno 3 minuti dal termine, la terza, ultima, dopo tre quarti, dopo 30 minuti siamo stati in vantaggio di 11 punti addirittura. Perciò eravamo un osso vicini. Duro, sì, eravamo un osso duro per Siena quell'anno. Non è facile battere Siena tatticamente ha mille soluzioni, partendo da Lavrinovic, da Stonrook, micidialità di McIntyre, consistenza di Sato, non è facile. Sicuramente le squadre che sono attrezzate, appunto, torniamo di nuovo a Roma, potrebbero provarci, ma battere Siena con mille risorse tattiche che Pianigiani sta sfruttando al massimo, secondo me non è facile. Palla spicchi. Dunque, torniamo insieme con noi, coach Zare Markowski, 800 24 0024 è il numero verde. C'è un messaggio, 349-238-6666 per voi. C'è un messaggio di Max da Pesaro, abbiamo parlato di basket europeo, un accenno alla qualificazione della Scavo Spar alle Final Four di Euro Challenge. Rischiosissima, mi viene da dire, questa qualificazione. Sì. Rischiosissima, vista la situazione di classifica è di quello. Pesaro. Secondo me Pesaro in questo momento è la principale indiziata per la retrocessione. Zare. Sì, se non principale, ma a pari con, sì, Ferrara. Con Ferrara e magari un po' di più di Cremona. Perciò, avendo due scontri diretti sia a Cremona che a Ferrara, al 6 giornate al termine bisogna vedere come passeranno quelle. Adesso siamo a 8 giornate, ma avendo quei due incontri, quando saranno a 6 giornate al termine, e bisogna vedere come passeranno quegli incontri. Secondo me lì si decide la lotta per la salvezza, a prescindere di Pesaro, no? Guardandola da fuori, cosa non funziona nella Scavo Spar? Secondo me è una chimica sbagliata, probabilmente anche chimica tra le caratteristiche dei giocatori principali e quelle di Luca Dalmonte. Bravissimo, mi sembra che parlino linguaggi differenti. Ma qua andiamo a monte a vedere la chimica delle scelte che sono state fatte, perché facendo quelle scelte di avere una coppia che ha fatto bene in Italia, Green Williams, dopodiché, come dice lei, affiancare un allenatore che magari non aveva stesse esigenze o magari le aveva, perciò bisogna vedere come sono arrivati a quel tipo di squadra, anche se a prescindere di tutto hanno ritardato e magari sopravvalutato la coppia Green Williams, perché nell'assenza di Williams si pensava che soltanto il ritorno di Williams guarirebbe, sì, la malato e sicuramente saranno meglio. In effetti al ritorno di Williams c'erano bei risultati che hanno dato la speranza dopo le prime 8 sconfitte di fila, dopodiché quell'effetto è sparito e adesso si ritorna a pari valore e lottare per la salvezza. Tra l'altro, Carlo, ti segnalo che, sì, che in questo turno c'è quello che una volta era un grande classico, cioè Pesaro-Milano è alle 20:30 di domenica, e insomma partita delicatissima già per Scavolini, che però coach anche insieme ad altre squadre ancora questi due punti di bonus con Napoli, che forse potrebbero, sì, in qualche modo tornare buoni, perché di quelle squadre lì sia Varese che Biella che Teramo devono avere Napoli, quindi tutto sommato tutta la classifica è falsata, diciamo, riguardo le squadre che hanno giocato e che non hanno giocato con Napoli, ma comunque sia i scontri diretti a Cremona e a Ferrara decideranno la, certo, visto che Cremona e Ferrara hanno finito il loro scontro diretto, le trasferte di Pesaro a Cremona e Ferrara saranno decisive per la lotta del servizio. C'è Pesaro-Milano, che vale per Pesaro ma vale anche per Milano. Milano e Treviso, le metto insieme in questo caso, attardate, chi più chi meno, Treviso più di Milano, in piena confusione anche come gestione, con forti venti di contestazione sia a Milano che Treviso. A Milano sappiamo bene come nelle partite interne ci sia un pubblico un po' diviso sulla gestione sull'approvare o meno la gestione della squadra. Gran parte del pubblico non apprezza l'operato di Cosbuchi e non manca di farlo notare, ma grandi venti di contestazione anche intorno a Repesa a Treviso, situazioni molto difficili queste, Zare, per due squadre che sono hanno ambizioni da grandi, insomma. E tra l'altro Treviso adesso è a 4 punti dalla zona playoff, quindi situazione non facilissima, tutt'altro direi. Secondo me di questo andazzo Treviso avrà difficoltà di salire al playoff, che definitivamente metterà in luce quello che è stato fatto con la cambio di gestione da Vitucci a Repes, ma sono due cose secondo me diametralmente diverse. Milano ha dimenticato che la squadra della città di Milano che non vuole e non accetta essere seconda a nessuno in Europa, perciò si comportano da una piccola squadra cercando sempre gli alibi, che non hanno budget, magari che hanno tanti infortuni. Nessuno in questo mondo ormai è pronto di sentire gli alibi, perciò è inutile piangersi addosso mentre gli altri come Procom vanno tra le migliori otto, come Partizan con quattro volte budget diminuito vanno tra le migliori squadre d'Europa, e la città di Milano fatica di vincere quarta partita in Eurolega con la sua squadra. Treviso d'altra parte è partita, almeno hanno dichiarato che hanno voglia di lavorare con i giovani, di creare progetto, e fin là era tutto a posto, diciamo. Sì. Anche qualche sconfitta in più magari si poteva capire, certo. O magari mancata qualificazione all'Eurolega si poteva accettare. Sì. Dal momento quando hanno invitato con la stessa squadra un allenatore abituato a lavorare con le squadre mature con il budget illimitati o quasi, hanno fatto chiaro segnale che vogliono vincere, che vogliono andare, che vogliono risultato, sì, sì, sì, sì. Perciò hanno cambiato progetto in corsa, e adesso io non sapevo delle contestazioni, ma diciamo che va rivisto tutto quello che è stato detto e poi fatto e poi adesso magari rifatto, assolutamente è una situazione molto nella nebbia, diciamo. Certo. Gennaro Salerno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, dica. Volevo fare un'osservazione, anche chiedere al coach Zare in relazione all'eliminazione anche quest'anno di Siena. Siena ogni anno costruisce, almeno negli ultimi anni, una squadra per vincere l'Eurolega, non ci riesce. È possibile che questo, almeno come la vedo io, possa essere attribuito ad un campionato troppo d'élite di Siena in Italia? In Italia purtroppo Siena non affronta squadre dello stesso livello, e quindi quando vai in Europa non è abituata, secondo me, a stare su tutte le partite concentrate al 100%, perché ormai si vede il campionato italiano sicuramente molto più livellato dal punto di vista diciamo delle squadre, però l'aspetto tecnico è un po' sceso rispetto agli ultimi, sì, anni. Questa era la mia domanda, cioè il fatto che purtroppo... Che Siena paghi in Europa il livello non alto del nostro campionato, secondo me è vero solo in parte. Tu cosa dici, Zare? Ma io penso che a metà potrebbe starci la poca competitività, visti anche i risultati delle altre squadre che abbiamo in Europa. Evidentemente il nostro campionato è purtroppo poco competitivo nei confronti di quelli, soprattutto di quelli di alto livello, ma l'altra metà possiamo avere soltanto dispiacere, perché Siena è stata vicinissima a continuare almeno fino ai quarti anche quest'anno in Eurolega. L'anno scorso è stata eliminata dal campione che poi ha vinto l'Eurolega, Panathinaikos, perciò Siena è sempre lì, che sicuramente poca competitività nel nostro campionato la danneggia, è ovvio. Però ti ricordi, Carlo, che abbiamo fatto i conti noi su queste cose. Tra l'altro c'è anche un messaggio di Roberto da Verona che dice anche il Maccabi ha un campionato di livello basso come il nostro. Il Cesca vince sempre, il Barcellona vince sempre. Il Procom vince sempre. Insomma, a livello di numeri sembra quasi che anche le altre squadre che poi invece sono andate avanti in Europa non è che abbiano poi un campionato dove tutte le domeniche devono andare a combattere delle guerre con la baionetta. Insomma, mi pare che... In Grecia, Panathinaikos, i numeri dicano questo, che l'Italia a quel livello non sta molto diversamente rispetto alle altre. È vero, è vero, e sicuramente va accettato quell'osservazione, ma altrettanto è vero che campionato italiano non è come quell'israeliano dove Maccabi ha vinto su ultime 40 volte ha vinto 39. Evidentemente Maccabi ha l'occasione di programmarsi ogni domenica, cioè ogni giovedì. Per loro il vero campionato è giovedì, non domenica come dalle altre parti. E in Italia Siena è vero che potrebbe programmarsi giovedì, ma programmando così il lavoro settimanale non è mica detto che in Italia potrebbe vincere a mani basse. Perciò Siena evidentemente programma ogni partita per partita, cioè a prescindere gioca giovedì, domenica, a prescindere contro chi gioca si prepara nell'uguale modo. Invece programmando giovedì come programmano Panathinaikos, Maccabi, CSKA, è molto più facile perché quei campionati sono talmente poco competitivi che loro evidentemente potrebbero permettersi ciclo settimanale di preparazione farlo giovedì. In Italia non è così poco competitivo campionato, è poco competitivo per Siena perché comunque deve domenica essere pronta a vincere a Roma piuttosto che a Treviso, piuttosto che a Milano, e non è facile quando giovedì torni dalla sconfitta di Maccabi e domenica devi giocare a Milano, non è facile dire vabbè perdiamo con Milano perché intanto li batteremo nel playoff come sta succedendo a Tel Aviv. Perciò nella tecnologia del lavoro il campionato italiano è poco competitivo, ma non così tanto come quegli altri che possono permettersi pensare una partita a settimana. Ci fermiamo per il traffico, poi c'è Luca. Siena per esempio a Milano o a Roma non può vincere senza Sato, senza McIntyre. Invece Maccabi può vincere contro Apoel Holon senza Anderson. Quella è la differenza. Certo. Sì, comunque devi comunque stare sempre in campana. Appunto. Però sono tante energie spese. Sono tante energie spese sulle due strade. Insomma. Sì, sì. Palla spicchi. Come anticipato, Luca, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, dica. Io sono un tifoso dell'Olimpia e faccio parte di quella parte di tifosi che diciamo non apprezza granché quello che è la gestione societaria della prima squadra e la gestione tecnica. Sì. Mi rifaccio anche un po' gli interventi e le considerazioni che facevate prima sul caso Messina, Real Barcellona. Ecco, quando sento parlare della gestione delle rotazioni della partita di Messina non la ritrovo nel nostro coach. Cioè, un esempio su tutti è la rotazione o il Mancinelli un po' tipo staffetta Mazzola Rivera degli anni 70, oppure voglio dire Becirovic che a 2 minuti e mezzo nelle finalette ad Avellino esce per far posto a Pulleri che in uno dei suoi momenti di trance negativi la partita finisce come finisce, no? Allora, dice giustamente il coach Markowski, si cercano troppi alibi, infatti dopo quella partita si sente parlare di bravura, nel senso di aver tenuto la squadra di casa a 59 punti, quindi buona impresa, non come Bologna che gli ha fatto fare 63 punti, magari peccato che ne ha fatti 71 e è andata in finale, no? Dichiarazioni come io avevo chiamato prima delle Final Eight, dicendo che notavo che nei secondi tempi Milano quando cresce le difese avversarie, l'anno scorso andava da Hawkins e quest'anno non ha proprio l'idea di cosa fare in attacco, sembrano tutti giochi estemporanei. Voi mi avete detto che la cartina di tornasole sarebbe stata le Final Eight e quindi da questo voglio dire ci siamo già in parte risposti. Così, ci sarebbe altre cose da fare sul mercato e tutto, però diciamo anche delle dichiarazioni e poi chiudo, oltre a quelle che le ho detto, quando si parla appunto del budget, Kinky, partendo col Kinky si parla del budget, poi oggi siamo, mi sta anche bene, per me è una idiozia, però mi starebbe bene se per coerenza oggi si commentasse il fatto che Montegranaro e Caserta, che probabilmente hanno un terzo assieme del budget di Milano, sono due punti davanti, Cantù che ne ha ancora meno, è solo a due dietro, no? E ha vinto bene 2 settimane fa. Nella che sua dire, sottile ironia, insomma, è difficile smontare queste tesi, Zare. Anche perché, insomma, grosso modo, al di là della verve del tifoso, sono abbastanza condivisibili. Purtroppo è così. Io per la verità non seguo quotidianamente, non vedo tutte le partite di Milano, quest'anno non le ho viste tutte, ma sicuramente è così. La mia paura vera è che, insomma, secondo me Armani è un patrimonio, Armani gruppo imprenditoriale è un patrimonio per la pallacanestro italiana. Meraviglioso. Non vorrei che dicesse: beh, soldi spesi tanti, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, non vinciamo, adesso sono quasi stufo. È paura di tutti noi. Vero. È paura di tutti noi, perciò augurio che Armani rimanga a lungo come gruppo nella pallacanestro italiana, soprattutto nell'Olimpia, perché ripeto, la città di Milano evidentemente combacia con la grandezza di gruppo Armani. Adesso voglio farvi sentire una cosa che con l'Armani non c'entra nulla, con la pallacanestro italiana sì. Non sono dichiarazioni di tifo, capisco il salto sulla seggiola da parte di qualche ascoltatore, però allora vi dico la verità, io sono in linea di principio, ma voi chi ci ascolta lo sa, sono in linea di principio contrario all'organizzazione del tifo, al tifo organizzato, a tutte queste cose, soprattutto se parliamo di calcio. La fossa dei leoni della Fortitudo mi sembra però un caso un po' a parte, un modo di vivere. Più che una curva, un tifo organizzato, è un modo di vivere lo sport, che per il 40esimo compleanno che si celebra quest'anno è diventato un documentario che tra l'altro andrà in onda su Sky domenica 28 alle 11 prima di Cantù Roma. Abbiamo in linea il regista di questo documentario, nonché protagonista di quella curva. Il documentario si intitola Facta non Verba. Simone Barbuti, buongiorno. Ciao, buongiorno agli amici di Radio 24 e agli amici di Pallaspicchi, è un piacere essere vostri ospiti. Cosa c'è dentro questo documentario? C'è una dichiarazione d'amore verso la tifoseria, come hai detto tu, della Fossa dei Leoni, che si distacca non per ideali ma per modi di fare dalle altre tifoserie organizzate. Una dichiarazione d'amore da parte di ex giocatori, ex coach, c'è anche un amico di Marcotti che ospite da oggi, c'è Teo Alibegovic, che rilascia un'intervista veramente toccante nei confronti della Fossa, ricordando dei passati degli anni 92 quando lui giocava in Fortitudo. Sì, Coach Zare, tu sei stato avversario acerrimo della Fossa della Fortitudo, che ricordi hai? Bei ricordi, avversario, ma diciamo che tutto è stato nei ranghi regolari, perciò la intensità del tifo Fortitudo è quello che li fa grandi, perciò per me è un bel ricordo. Simone, ci manca la Fortitudo al piano di sopra, oltre alla Fossa ci manca proprio la squadra, tornerete? È quello che stiamo aspettando tutti, che torni la squadra, però in attesa la Fossa c'è, è vicina anche in questi momenti alla squadra in Lega Dilettanti, perché per la Fossa non è il vincere il derby, anche se pur importante, o vincere lo scudetto nel 2005 con la Magia, cioè l'importante è che ci sia la squadra e di fare per la F e la cultura di tutto quello che è il mondo della Fortitudo, perché ricordo che oltre ad essere tifosi sono anche promotori di opere benefiche. Sì. Infatti tutto quello che verrà guadagnato dalla festa di domenica, che ci sarà a Bologna con concerti dal vivo, uno spettacolo all'Estragon che comincia alle 14, vendita di un CD audio doppio con tutti i gruppi di Bologna che hanno suonato canzoni dedicate alla Fortitudo e il DVD con il documentario, tutti i proventi vanno in beneficenza a Agiop Ricerca dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Questa è la Fossa. Questa è la Fossa e ci tenevo a scrivere questa pagina. Naturalmente veniamo anche noi, Simone, domenica. Grazie, opere benefiche dell'ospedale Sant'Orsola. Grazie Simone, bocca al lupo davvero. Vediamo domenica mattina alle 11, ragazzi, qui a Bologna, ci vediamo alle 14 all'Estragon. Grazie agli amici di Radio 24. Grazie a te, Simone Barbuti. E tra l'altro ricordiamo che Simone Barbuti si è messo in contatto con noi tramite il nostro gruppo di Facebook che trovate sull'apposito sito, e quindi insomma c'è anche possibilità di raccontarci storie belle come questa. Una cosa brevissima, Carlo, visto che si parla di anniversario, a Sassari, città molto cara a coach Markowski, si sta celebrando con una mostra permanente il 50esimo anniversario della società, mostra che insomma si può vedere, resterà fino al termine della stagione, chiuso. E Sassari magari festeggerà questa mostra con il grande ritorno. Io spero. Zare, quando torni a allenare, che piani hai per il futuro? Diccelo, manca un minutino. Nessun piano particolare. Che programma ti piacerebbe sposare? Ti piacerebbe seguire? Mi piacerebbe avere... La tua squadra ideale qual è? La mia squadra ideale sarebbe... ho fatto bene quando 99% dipendeva da me. La mia squadra ideale sarebbe di darmi la carta bianca, perché così rendo meglio. Con giovani, con una squadra matura per vincere, con gli italiani, con gli stranieri, più giovani, con i giocatori bravi. Più giovani e più italiani possibile. Grazie Zare, grazie presto. Grazie a coach Zare Markowski, Flavio Suardi qui con me, Franco Piantanida in redazione, Fabio Cantadori in regia. Domani ci sentiamo dalle 5 alle 6, alle 6 domani pomeriggio alle 18 comincia Roma-Inter, dunque vedete un po' voi quale può essere l'argomento della puntata di domani. Buongiorno a tutti.